9 in punto. Buongiorno, bentornati da Gianfranco Fabi. Oggi parliamo di Venezia, parliamo di questa città in cui inizia oggi questa sera il Festival del Cinema, un appuntamento che pone Venezia sotto i riflettori del mondo, ma che pone Venezia anche sotto i riflettori nei suoi aspetti diversi, i suoi aspetti di splendore, di città storica, di città che ha grandi monumenti, che ha un grande passato, che ha una grande tradizione, ma una città che ha di fronte anche tanti problemi dell'attualità. Oggi parliamo di questi problemi, ne parliamo in una prospettiva storica, in una prospettiva di cultura, nella prospettiva di come non tanto salvare Venezia, perché Venezia si salverà sicuramente, quanto come affrontare questo problema di Venezia, quali provvedimenti prendere sul fronte del turismo, che cosa consigliare ai turisti di conoscere per avvicinare questa realtà che fa tanto sognare, che fa tanto emozionare, ma che deve essere comunque parte del nostro patrimonio, della nostra umanità. Ne parliamo con i nostri ospiti che vi presento. Gianfranco Bettin, buongiorno dottor Bettin. Buongiorno. Sociologo, scrittore, consigliere regionale per i Verdi, già prosindaco di Venezia ed è autore di molti libri. L'ultimo, lo ricordo, è Gorgo, il fondo della paura, che è un libro che racconta uno degli episodi più drammatici del Veneto degli ultimi anni, l'assassinio di due anziani coniugi appunto nella piccola cittadina di Gorgo. Abbiamo Mario Isnenghi, buongiorno professor Isnenghi. Eccomi, buongiorno. Storico contemporaneo, professore all'Università Ca' Foscari. E abbiamo Predrag Matijević. Buongiorno professor Matijević. Buongiorno, io sono in questo momento a Zagabria. Saluto cari amici di cui avete parlato da Zagabria. Grazie mille professore, da Zagabria, grande conoscitore appunto della realtà adriatica dei Balcani, cofondatore della Fondazione del Mediterraneo, insito della Legion d'Onore in Francia e della cittadinanza italiana. Poi abbiamo Marco Carminati, buongiorno Marco. Buongiorno dottore. Buongiorno, giornalista del Sole 24 Ore, grande conoscitore del patrimonio artistico ed è su Radio 24 ogni sabato dopo il GR delle 9 con la rubrica Luoghi d'Arte. E in studio con me Marta Cagnola, buongiorno Marta. Buongiorno direttore, dopo tutti questi ospiti mi sento un po' in imbarazzo. No, Marta Cagnola è qui col biglietto del treno in mano, sta partendo per Venezia, seguirà per Radio 24 il Festival del Cinema e appuntamento nei GR di Radio 24 e alle 9 di sera con uno spazio in cui racconterà ogni giorno questo Festival del Cinema. Marta, com'è cambiato il Festival del Cinema negli ultimi anni, tu che l'hai seguito, com'è cambiato il rapporto del Festival, quale rapporto c'è tra il Festival e la città? Allora si può subito andare a qualche anno fa, 4 anni fa, quando è nata la Festa del Cinema di Roma. Perché tirare in ballo Roma se si parla di Venezia? Perché quando è nata la Festa del Cinema di Roma, subito a Roma hanno detto sarà festa e non festival. Sarà un'occasione perché il cinema entri in contatto con la città, perché tutti possano in tutti i cinema della città vedere i film. E questo cosa fa capire? Che si sarebbe creata un'occasione in antitesi con invece il festival, la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, che tradizionalmente coinvolge poco i veneziani. Anche perché si svolge al Lido e Venezia, la Venezia storica, non partecipa. La Venezia storica partecipa poco, ci sono alcune proiezioni a Venezia, però il grosso è al Lido e chi non frequentasse Venezia, insomma, deve immaginarsi che deve prendere comunque un vaporetto per andare al Lido e fare delle file per aggiudicarsi i biglietti per le proiezioni, non è semplicissimo. Quindi il festival è ancora qualcosa di elite più che di popolare, non ci sono grandi schermi nelle piazze, non c'è partecipazione. È anche il suo bello, perché comunque ci sono questi red carpet piuttosto affollati con le persone in fila per vedere la mondanità. Ecco, questo è l'aspetto che caratterizza un po' Venezia. Quindi in un certo senso il Festival del Cinema fa pubblicità a Venezia, ma è una pubblicità di cui forse Venezia non ne ha bisogno. Chissà, non so se Venezia non ha bisogno, sarebbe bello capire se i veneziani sono ancora affezionati a questa mostra del cinema. Allora giriamo la domanda ai veneziani o a chi ama Venezia. Gianfranco Bettin, Venezia ha bisogno di pubblicità o è uno dei problemi il fatto che Venezia sia troppo conosciuta? Ma non direi che ha bisogno di pubblicità, certamente ha bisogno di alimentare quella industria culturale della quale la Biennale in tutti i suoi aspetti e la Mostra del Cinema in questo caso in particolare sono una macchina fondamentale, particolarmente prestigiosa, che ha bisogno continuamente di essere aggiornata, anche in questo momento ha questo bisogno, e che resta però una funzione straordinariamente importante nella Venezia contemporanea, direi tutta la Venezia novecentesca, che ha inventato una buona parte dell'industria culturale, e l'invenzione stessa della mostra del cinema è un aspetto di questa fortissima innovazione nel campo delle politiche culturali, che a Venezia coincide anche con la politica del turismo, sia del turismo di qualità, d'élite, come si dice, che del turismo di massa. Sul punto specifico della mostra del cinema, io avrei una visione un po' diversa da quella che è stata rappresentata qui sul rapporto tra la città, i veneziani e la mostra del cinema. Intanto moltissimi film, tutti quelli principali, ma alcuni anche delle sezioni meno, come dire, meno d'impatto, di massa, insomma, vengono proiettati non solo al Lido, non solo nel centro storico, ma anche nel resto della città, in terraferma, a Mestre, a Marghera, con grande partecipazione. E i giorni della mostra sono giorni in cui moltissimi veneziani vedono molti dei film proposti alla mostra. Certo, magari sono meno veneziani che vanno a affollare la sfilata dei divi, ma bisogna anche capire che il veneziano medio è abituato a vedere tutto l'anno, da decenni, in giro per la città, le celebrità che altrove è più difficile vedere, per cui è anche comprensibile che evitino il rito dell'applauso alla diva o al divo del momento, perché se lo vedono molto spesso a passeggio per la città. È anche una delle cose belle di Venezia, se vogliamo, un certo snobismo, ma legato alla consuetudine con tutte queste personalità che normalmente gironzano per la città non solo durante i periodi clou, diciamo, anzi più spesso fuori stagione, perché se lo possono permettere e se la godono meglio. Quindi è un rapporto di questo tipo, insomma, molto disincantato quello dei veneziani con la mostra, ma molto consapevole che una parte fondamentale del, fra virgolette, mito della Venezia moderna. Insomma, ecco, lei, Bettina, ha parlato di Mestre e di Marghera come di Venezia. Qual è il rapporto attualmente tra queste realtà, che, su cui c'è un conflitto, ma insieme una vicinanza e una comunanza di interessi? Sono la stessa città, articolata in parti che sono molto diverse, diciamo, per storia, natura, che però si sono via via riconosciute come tali. Non è un caso che anche dopo forti spinte separatiste nei decenni precedenti, l'ultima volta che si è votato per separare queste parti, non solo non si è raggiunto il quorum, ma quei pochi sono andati a votare hanno votato in grande maggioranza per restare uniti. E certo, è complesso tenere insieme tutte queste cose, ma diciamo la modernità è anche complessità, e il fatto che Venezia viva un rapporto con la modernità molto diretto, a volte anche in modo drammatico, a volte in modo disordinato, ma vivo, intenso, lo si vede anche dalla sua composizione, che è per l'appunto questa. Grazie Bettina. Questo rapporto di Venezia con la modernità, professor Isnenghi, è un rapporto conflittuale? È un rapporto conflittuale, sì, dal momento che, lo sappiamo tutti, Venezia è la città della memoria per eccellenza. Venezia si ricorda continuamente, e tutti ricordano continuamente a Venezia quant'era grande in passato, la Serenissima, la Repubblica di Venezia, la morte di Venezia nel 1797. Come coniugare questo con il fatto che invece, appunto, abbia inventato la Biennale alla fine dell'Ottocento come città dell'immaginario? Era naturale che avvenisse. Abbia inventato la mostra del cinema ai primi degli anni 30 del Novecento, di nuovo la modernizzazione dell'immaginario, insomma tutte e due le cose, un sovrappiù di memoria che talvolta è veramente zavorra e non ricchezza, e d'altra parte Venezia è questa sua memoria, e quindi questa memoria non possiamo non considerare la ricchezza. Tutte e due le cose, trovare l'equilibrio tra le due cose è altrettanto facile, cioè altrettanto difficile, che trovarla tra Venezia e Mestre, tra Venezia e Marghera. Sia Mestre che Marghera sono naturalmente figlie nell'Otto e nel Novecento rispettivamente della Venezia storica. Eppure a lungo si sono considerate figliastre, come ci faceva capire Bettini poco fa, anche se il peggio di queste tentazioni separatiste è passato, è superato e forse ormai si è raggiunta di qua e di là dall'acqua, perché poi anche Mestre e Marghera stanno sull'acqua, vero? Non è che si ecco, professore Sneghi, non è forse un po' un simbolo anche di una, non tanto di una contraddizione quanto di una scelta, di una Venezia protesa verso il mare da una parte e di una Venezia invece che guarda verso la terra dall'altra, è una Venezia che nei secoli è stata l'avamposto dell'Adriatico, dominatrice poi dell'Adriatico e che guardava verso appunto il mondo del mare più che verso la terra, invece adesso forse che il mare è più qualcosa che non è più di grande attualità come conquista storica, è invece rivolta più verso il Veneto, più verso essere il capoluogo del Veneto. Questo contrasto esiste, Sneghi? Comunque, il porto commerciale, il porto turistico in particolare tira benissimo attualmente, quindi non è che il mare sia finito, sarà finito dal punto di vista imperialistico, ma non è finito dal punto di vista delle crociere turistiche, e quindi e questo è un motore commerciale della città. Ma sulla questione terraferma, i rapporti con la terraferma e rispettivamente col mare nel corso dei secoli sono stati complicatissimi e variegati, ancora oggi lo sono, e in un senso e nell'altro il rapporto tra Venezia e la terraferma, tra la terraferma e Venezia, non è sempre di amore e di medesimazione, molti in giro per il Veneto non si riconoscono in Venezia come capitale. Ma tornando alla questione acqua e terraferma, a lungo la piazza principale di Mestre è stata Piazza Barche, perché anche quella in fondo è un centro urbano che nasce e cresce sull'acqua, e le barche andavano e venivano da Canareggio verso questa piazza di Mestre, appunto, e le barche, prima che ci fosse il ponte o che il ponte surclassasse le barche. Voglio dire, non è affatto detto che Mestre e Marghera debbano essere viste come terraferma e basta, sono un intreccio di acqua e terra, e non per niente le fabbriche di Marghera sono nate sull'acqua, sono nate su quel misto di acqua e terra che sono le barene. Questo unifica, intreccia, e in fondo l'idea di Venezia più giusta è quella che si ha guardando dall'aeroplano quando si scende e si vede davvero l'arcipelago e l'intreccio dei rii, dei canali e delle terre emerse. Sì, una grande realtà vista soprattutto dall'alto, una realtà unica, questa realtà appunto in cui la terra e il mare si confondono con un equilibrio appunto che si avvicina sempre di più, non c'è un confine netto, c'è una laguna, c'è un mare che ogni tanto crea qualche problema con l'acqua alta, ma che ha una grande opportunità, una volta appunto in senso imperialistico, adesso perché Venezia, pur con qualche problema per le navi che passano nel bacino di San Marco, le grandi navi da crociera che ormai sono enormi, che passano nel bacino di San Marco e destano qualche preoccupazione quando le si vede passare, comunque è diventata un centro crocieristico ormai tra i più grandi. Allora, Pradr Matijevic, questa storia di Venezia così collegata al mare, collegata al fatto di essere aperta al mondo, come è cambiata negli ultimi anni questa immagine? Matijevic. Una moda di dire Venezia è una banalità, eccetera. Il fascino di Venezia non si può negare, questo è una, direi, non si è sincero quando si nega il fascino di Venezia. Ma per quanto riguarda proprio in che cosa è affondata in qualche modo Venezia, non tanto nella sua storia, pochi conoscono la vera storia di Venezia, e in qualche modo affondata, negata in una rappresentazione, una serie di rappresentazioni, innumerevoli volte rappresentata con la penna, con il pennello, diventata effettivamente questa rappresentazione è diventata spesso un luogo comune. E quando si guarda così tutto quello che è scritto a Venezia è molto molto difficile. Per quanto riguarda la partecipazione dei veneziani alle grandi manifestazioni, quelle del cinema, quella del film, partecipano più che si pensa. Comunque mi ricordo, io ho avuto poca esperienza, l'anno scorso hanno rappresentato il mio breviario mediterraneo, hanno fatto due o tre rappresentazioni teatrali, c'era tanta gente e non erano i turisti, infatti si è scelta un'aula fuori del centro della città, erano proprio veneziani. Aggiungerei a questo una, diciamo, difficoltà più per rappresentare la vera Venezia. Cito l'amico Raffaele La Capria, che ha fatto il mio libro L'altra Venezia, una prefazione, diceva: cosa occorre? Dice, occorre sensazioni, mettere in rilievo sensazioni di umido, di acqua, di marcio, di tempo, di bellezza, di passato, di malinconia, di miraggio, di nostalgia, di sabbia, di fango, di oro, di sfumato, di splendente, di torbido, di Venezia, insomma, dell'indicibile Venezia. Ecco, una citazione dell'amico Raffaele La Capria per il mio libro L'altra Venezia, questo proprio facendo una seconda edizione che è uscita recentemente. Sono molto molto pensato a quel consiglio di un napoletano che conosce questo tipo di vecchie città anziane che rischiano sempre di affondarsi nella loro propria storia. Ecco, lei ha parlato molto, molto bene, molto, in maniera molto bella. Da straniero con l'accento. Da straniero con l'accento, ma però del fatto con la cittadinanza italiana. Che Venezia si vive con i cinque sensi, si vive guardandola, si vive sentendola, sentendo gli odori, i sapori, sentendo, camminando per queste strade, si sente appunto poi con quel senso che riassume tutti, che è quello del cuore e dell'emozione. Lei, Matievici, che cosa ama di Venezia? Amo Venezia, amo una specie di diversità, un senso di, direi, di minaccia, qualcosa può succedere che potrebbe fare male a qualche cosa che è Venezia. Mi ricordo di un viaggio, ero col presidente francese Mitterrand, primi miei anni dell'esilio, fra asilo ed esilio, li trascorsi in Francia, ho avuto... E un uomo molto critico, molto, molto direi così riservato, come lui dinanzi agli spettacoli di Venezia si svegliava. Poi mi ricordo, ci siamo passati spesso dinanzi ai famosi leoni marciani. Allora là, anche lì non è una sola cosa, ci sono leoni alati, leoni seduti, leoni in moleca, come si dice, leoni trionfanti. Scoprire queste diversità nei dettagli, nei particolari, così si avvicina alla vera Venezia, si fugge a questa immagine banale, una immagine stereotipa. Come fuggire, uscire dal... stereotipo, questo mi sembra essere il problema di colui che viene a Venezia così e che vuole veramente conoscerla. Bentornati, stiamo parlando di Venezia, oggi si inaugura il Festival del Cinema, ma parliamo di questa città, una città d'arte, una città centro del turismo che si confronta quotidianamente con i problemi di una città che si spopola di cittadini, dei propri abitanti, che ha delle ondate turistiche rituali spesso, che ogni tanto si trova di fronte a problemi gravi come l'acqua alta, che si spera di risolvere, però ci vorrà del tempo con il Mose. Abbiamo concluso la prima parte con Padre Mattievi, ci ricordava appunto la bellezza di Venezia, la bellezza di scoprire degli aspetti non rituali di Venezia, non solo Piazza San Marco. Marco Carminati, giornalista del Sole 24 Ore, segue per il Sole 24 Ore la parte appunto artistica sul domenicale, e su Radio 24 una rubrica Roghi d'Arte il sabato dopo il GR delle 9. Marco Carminati, che consiglio dare a chi vuole riscoprire Venezia? Mi aggancerei proprio a quello che ha detto il professor Mattei, invece, cioè di evitare gli stereotipi. Venezia è assalita, diciamo, periodicamente da ondate di turismo che sono legate magari alla bella stagione, oppure appunto ad avvenimenti importanti come la Mostra del Cinema. Quest'anno c'è anche la Biennale. In queste occasioni appunto si assiste a una pacifica invasione, di solito è un turismo d'élite. Poi ci sono altre occasioni, il Carnevale, oppure le occasioni di grandi performance musicali, che mi pare però per fortuna adesso siano state accantonate, dove arriva il turismo di massa. Ecco, il consiglio è di stare a metà, cioè per evitare gli stereotipi, per non farsi travolgere da questo fascino, peraltro comprensibile, della mondanità, sarebbe bene provare a prepararsi. Cioè Venezia è una città che per essere conosciuta presuppone l'umiltà di una preparazione, è abbastanza difficile arrivare, sbarcare e riuscire a orientarsi in un luogo così ricco di opportunità e di arte. Quindi il mio consiglio semplicemente è quello di provare a preparare a tavolino un breve viaggio, magari dividendo la città come era nell'antica sua conformazione in sestieri, sei grandi quartieri, e dico così perché anche la guida Turing, la celebre guida rossa del Turing, propone al visitatore che non è né di massa né d'élite la divisione in sestieri, e dividere la visita a Venezia negli anni, perché è impossibile andare in un fine settimana, è possibile anche impossibile stare una settimana perché altrimenti non si resiste. Quello che fosse possibile fare è dividersi questa città, il piacere di questa città, nei singoli sestieri ed andare a scoprire di volta in volta le caratteristiche di questi sestieri, che possono essere di ricchezza e di concentrato debordante, come nel caso del sestiere di San Marco, dove bisognerebbe darsi da fare tra la Basilica di San Marco e il Palazzo Ducale, ma in questo caso io mi permetto di suggerire di andarci d'inverno, magari in quelle belle giornate dove la nebbia avvolge un po' la città, perché si sta bene lo stesso e magari si evita la folla, e invece di utilizzare le stagioni più affollate per i sestieri più distanti dal centro, da questo centro nevralgico, possono essere il Cannarreggio, il Dorso Duro, bellissimi sestieri di San Polo e Santa Croce, dove si incontrano nelle singole chiese, nei palazzi e negli angoli gli stessi identici capolavori che noi possiamo incontrare appunto o in Palazzo Ducale o nelle gallerie dell'Accademia. E ecco, poi Carminati, un consiglio, magari uno solo, un piccolo capolavoro di cui non si parla e che si può scoprire andando. Dunque, il consiglio mi viene da un appunto da un fatto abbastanza importante. Nella chiesa di San Giorgio, sull'isola di San Giorgio, qualche tempo fa è stata realizzata una copia tecnologicamente perfetta delle nozze di Cana di Veronese, grande quadro che si trovava all'interno del refettorio e che Napoleone si è portato via e che oggi si trova al Louvre. In questa occasione fu fatta una grande un grande battage di informazione per un fatto abbastanza singolare, perché quel muro bianco è terribile, è vuoto, così è commestibile, ma la cosa singolare è che a Venezia nella chiesa di San Sebastiano c'è un concentrato strepitoso di opere originali di Veronese che non si conoscono, perché è una chiesa un po' fuori mano, si trova vicino alla stazione marittima e lì è sepolto anche il grande pittore veronese. Ecco, quello è un caso dove appunto ci si affolla per vedere una copia peraltro importante e poi magari nessuno si accorge che nella stessa città c'è un concentrato strepitoso delle stesse opere dello stesso pittore. È uno dei problemi, è che forse a Venezia ci sono troppe cose, non si possono appunto pubblicizzare, evidenziare, mettere in mostra tutti. Il richiamo turistico spesso è appunto un richiamo che punta su qualcosa e deve necessariamente in questi casi appunto lasciare in secondo piano gli altri. Gianfranco Bettini, come giudica la politica del turismo negli ultimi anni? Nelle ultime dichiarazioni il sindaco Cacciari ha detto Venezia non diventerà mai un museo, anche riferendosi al fatto che questo calo di popolazione continuo lascia pensare che appunto la Venezia, parlando della Venezia storica, della Venezia del centro sulla laguna, possa appunto perdere i suoi abitanti e lasciare lo spazio agli alberghi, magari anche alle seconde case, magari anche agli studi degli artisti e così via, ma perda un po' delle sue caratteristiche di città. Gianfranco Bettin. Ma il calo drammatico dal punto di vista demografico è avvenuto tra gli anni 50 e gli anni 80, quando Venezia ha perso più di 100.000 abitanti. Quello è stato il calo proprio dovuto alla disgregazione della vecchia composizione sociale e demografica, nell'impatto con la modernità, la crescita della terraferma, lo sviluppo di Porto Marghera, anche la marcescenza per certi versi della proprietà immobiliare sottoposta a crescenti acque alte, ai piani bassi, e quindi è stato davvero un processo di ridefinizione della struttura demografica e anche sociale della città nell'impatto con la modernità matura, insomma col Novecento avanzato e poi maturo. Il calo demografico più recente che ha portato gli abitanti del centro storico, isole escluse e naturalmente esclusa la terraferma, attorno ai 60.000, resta un dato preoccupante, ma è più connesso alla caduta demografica, alla mancata natalità e a una incompleta sostituzione da parte di nuovi abitanti provenienti da fuori, immigrati, intesi non come gli stranieri in generale, ma proprio gente che viene da fuori del centro storico, italiani compresi. E questo è un elemento che deve continuare a preoccupare, ma come preoccupa tutti i centri storici delle città contemporanee, e in realtà come dovrebbero occupare tutte le società contemporanee sviluppate, che hanno esattamente il problema di una mancata ripresa demografica o troppo parziale. Per Venezia questo è messo in relazione molto spesso a forte economia prodotta dal turismo, e in effetti avere a che fare con un fenomeno come il turismo è come avere un drago in casa, insomma, è più impegnativo che avere un gatto o un cagnolino, però può essere una risorsa straordinaria, e è in questa chiave che negli ultimi anni si sta lavorando, in particolare a Venezia. A Venezia arrivano circa 12-14 milioni di turisti, come dire, giornalieri l'anno, e 5-6 milioni di quelli che poi anche ci dormono, e sono una risorsa fortissima naturalmente. L'economia della città ne è risultata modellata negli ultimi 30, 40, 50 anni soprattutto. In parte è stata modificata e stravolta, per non finire risucchiati completamente occorre trattarla come una risorsa e perciò governarla, ma non è semplice. Ecco, vuoi sentire... Anche i giochi su numeri chiusi, ticket d'ingresso eccetera, lasciano il tempo che trovano, il problema è proprio gestire la cosa con gli strumenti moderni. Oggi si sono introdotti per la prima volta degli strumenti tipo le prenotazioni per via telematica, delle carte particolari che consentono di acquistare pacchetti di servizi. In un certo modo però siamo abbastanza all'inizio di questo percorso, che mostra una strada, ma non si può dire che ancora l'abbia inforcata in modo vincente. Ecco, ci sono alcuni messaggi che dicono proprio che bisognerebbe introdurre un numero chiuso, introdurre una tassa d'ingresso, un biglietto per entrare a Venezia in modo da proteggerla. Non so se sono suggerimenti che, appunto, come diceva Bettin, possono essere attuati. Una tassa d'ingresso, forse una gestione certamente ci vuole, però forse la tassa d'ingresso c'è e la paga chi per esempio usa i vaporetti. Alcuni messaggi ci ricordano: non si può dire di conoscere Venezia se non la si vede con la pioggia o con la nebbia, in bianco e nero è ancora più bella. E Fabrizio, non a caso, da Venezia. Davide, dalla provincia di Venezia, appunto, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, io abito a Marghera, quindi ero di Mestre quando mi sono trasferito a Marghera. Però secondo me ci sono delle cose fondamentali da cambiare a Venezia, e una delle cose fondamentali è il rapporto proprio personale, perché io, abitando a Marghera per esempio, sono sottoposto con tutti gli abitanti, i mestrini, i veneziani stessi, a esercitazioni costanti per l'allarme, per esempio, di fughe chimiche dal polo chimico, no? È una cosa stranissima, perché Venezia è un gioiello e ogni tanto noi dobbiamo sentire le sirene e non siamo, quando ci sono le esercitazioni veniamo avvisati 2-3 giorni prima, o comunque ci sono i volantini distribuiti per la città che ci avvisano, ma ogni tanto invece la fuga c'è davvero, e ogni tanto la fuga c'è davvero e gli allarmi non suonano, e questo credo che Bettin lo sappia perfettamente. Io me lo ricordo, Bettin, uno degli ultimi casi eclatanti con la maschera di fronte all'Enichem, una sera eravamo tutti preoccupati, sigillati in casa con i bambini con i fazzoletti bagnati sulla bocca. Grazie Davide. No, questa è una testimonianza, indubbiamente quello del polo chimico di Marghera è un tema che richiederebbe sicuramente un'altra trasmissione. Mi concentrerei sul tema di Venezia come realtà storica, realtà turistica. Claudio da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno. Che Venezia sia unica glielo dimostra un fatto: lei in lingua araba ha la traslitterazione di tutti le capitali, i nomi delle città. Napoli diventa Nabuli, Roma diventa Ruma, Ecco, Venezia si chiama Albunduchia, non c'è la traslitterazione, perché Albunduchia significa il proiettile e Venezia nei rapporti col mondo ottomano era il posto dove si andavano ad acquistare proiettili per i cannoni, questo per dire la particolarità della città. Però attenzione, il vero nocciolo, secondo me, culturale della questione, è che noi abbiamo di Venezia l'immagine che vogliamo dargli, cioè un'idica di sogno, un qualche cosa che ci suscita un senso tale di bellezza da lasciarsi esterrefatti. Ma questa non è la città vera. La città, questa è la rappresentazione di una realtà che si è costruita nel tempo con crudeltà, con guerre, con dominazioni, con atteggiamenti oligarchici, con diciamo con una storia estremamente particolare, estremamente anche interessante ma controversa. Quindi in realtà ciascuno di noi vede di Venezia un'immagine sua, di sogno, si colloca in questa realtà togliendo Venezia dalla realtà giornaliera. Ecco, lei ha pronunciato la parola sogno, ma ha pronunciato anche la parola realtà. Il sogno è bello quando è anche piantato nella realtà della persona. Eccoci per l'ultima parte di 9 in punto. Aldo da Prato ci ha ricordato questa realtà di Venezia aperta al mondo arabo e una Venezia in cui il sogno deve stare agganciato alla realtà. Allora, Pradra Matijević, nella storia, mi dicono che è caduta la linea, quindi con Matijević mi rivolgo a Mario Sdenghi sul fronte della storia di Venezia. Come è collegato l'attuale rapporto di Venezia con la sua storia? Dicevo prima che la storia spesso si confonde con la memoria, ma ci sono robuste tradizioni storiografiche a Venezia, quindi non mancano certo gli eruditi e gli storici che conoscono la storia della città, ma tutti invece presuppongono di conoscere la memoria. Le due cose hanno una forte parentela, ma non sono la stessa cosa. La memoria è molto più fantasmatica, generica, imprecisa, si nutre appunto di immaginario. Dentro questo ci sta anche il cosmopolitismo di questa città, andando in giro per la città si trovano continuamente i fonti o dei turchi o dei tedeschi o altri, quindi le isole, ma isole fortemente correlate a quello che stava intorno, di popolazioni che trafficavano con i veneziani e con cui i veneziani trafficavano. Naturalmente questo monito è un insegnamento per l'oggi rispetto ai problemi dati dai rapporti dell'oggi con l'immigrazione. Chissà, può darsi che sia per questo grande lascito della storia e della memoria che a Venezia la Lega è così poco presente rispetto alla forza che ha in terraferma, che è bizzarro e paradossale perché i leghisti molto più presenti nelle piccole città o nelle altre città di terraferma nominano continuamente Venezia come il loro punto di riferimento, come il loro ideale, mentre Venezia li snobba alquanto. Ma forse questo è il ripetersi tanti anni dopo del vero, reale rapporto tra Venezia e la sua terraferma. Ecco, cosa consiglierebbe, professor Sdenghi, per chi voglia conoscere una realtà appunto poco conosciuta di Venezia, al di là di San Marco, il Palazzo Ducale, per andare alla scoperta della sua storia? Se uno viene solo per poche ore, solo per un giorno, non possiamo dirgli non andare proprio in piazza. Vabbè, certo. Assurdo. E purtroppo molti ci vengono per poche ore. Questa è la situazione. Se ci si viene come giusto, come sarebbe bello per tutti naturalmente, per più tempo, allora dritti in Campiello del Remer, dritti a Sant'Alvise, dritti a San Pietro di Castello. Dritti niente affatto, perché a Venezia si dice sempre dritti quando qualcuno ti chiede la strada, ma non è vero niente, perché in realtà bisogna continuamente non curvare, non ci sono curve, ma insomma girare l'angolo, certo, e passare di calle in calle. E questo è naturalmente il bello. Perdersi a Venezia. Sembra un po' snobistico dire lascia perdere la piazza e perditi, no, certo, nella Venezia minore, ma questa è l'anima della città, questa è la città vera. Quindi l'idea di perdersi, che terrorizza molti turisti neofiti, non dovrebbe esserci, non dovrebbe essere così terrorizzante, perché perdersi a Venezia è la cosa più bella che possa capitare e la più veneziana. Tanto ci si ritrova sempre, ci si mette un'ora circa a attraversare la città da una parte all'altra. Ecco, si può attraversarla a piedi, in gondola, in vaporetto. Cosa consiglia, professor Sdenghi? A piedi naturalmente. Talmente ci sono dei luoghi di Venezia come il Lido o la Giudecca che consiglierei fortemente. È una riscoperta degli ultimi tempi la Giudecca. Però ci sono dei luoghi, ovviamente Murano, Burano, Sant'Erasmo, San Francesco, dove non puoi non andare in vaporetto, li raggiungi solo così, certo. In barca meglio ancora altrimenti, ma il centro storico è collegato da ponti e tu puoi certo camminarlo tutto, ed è questo da fare, guardando molto i suggerimenti che vengono dai nomi dei campi, delle corti, delle calli. Tra l'altro, chi teme di perdersi vede continuamente riferimenti alla ferrovia per San Marco, per Rialto. In realtà non ci si perde se proprio si assumono questi punti di riferimento importanti, ma dimenticarli per una mezz'ora, per un'ora, per tre ore non è niente male. E ricordo che quando appunto portavo amici o qualche volta persino gruppi così di turisti, di scolaresche in giro per la città, certo, questo era quello che cercavo di fare, tornarli subito dalle grandi direzioni di traffico, che non erano allora così affollate come adesso, e farli scoprire sempre la seconda, la terza possibilità, perché in ogni punto di Venezia, verso ogni punto di Venezia, si può andare in due, in tre modi, ed è sempre bello scoprire il quarto. Grazie. Predrag Matvejevic, proprio questo rapporto della città con il mare, con l'Adriatico, con il mondo esterno, è qualcosa che resta nella storia o si può recuperare? Diversi modi rimane nella storia. È abbastanza interessante il fatto che i veneziani non vedevano l'Adriatico come un mare, ma come un golfo, ed è un golfo di Venezia. Si può più facilmente, diciamo, adottare, prendere un golfo che un mare intero. Ma voglio aggiungere un'altra cosa che mi sembra interessante proprio nelle discussioni che sono state fatte. C'è un rapporto fra rappresentazione della realtà e la realtà stessa. La rappresentazione della realtà e la realtà non sono la stessa cosa. Ci sono tante divergenze fra di loro. E mi sembra così, sono stato tantissime volte a Venezia, soprattutto col mio defunto amico Brodsky, premio Nobel, che voleva essere sepolto accanto a Stravinsky, anche questo è un fatto che importa a Venezia, all'isolotto San Michele sono sepolti Diaghilev, Brodsky e Stravinsky, e con lui tantissime cose, lui beveva abbastanza come un russo, e abbiamo trascorso un tema che vorrei utilizzare rapidamente per dirlo: questi nuovi ristoranti, tutti uguali, dove cerchi in vano qualche cosa che sarebbe proprio veneziana. E ci siamo chiesti, ma dove sono questi termini che abbiamo imparato prima di venire? Osteria, trattoria, locanda, taverna, bettola, poi in dialetto veneziano bacari, poi si chiamavano una volta magazzini anche, futarole, canove, bastioni, Dio mio, tutto questo non esiste più. Per le compagnie che si riunivano in queste, si chiamavano in veneziano fragia, in italiano si doveva dire fraglie, di cui parla Goldoni nelle sue memorie, li chiama con discrezione compagnie di maggior brio, libertà. Ecco, questa ricerca in questo senso mi sembra una cosa assolutamente necessaria. Mi rendo conto che molti nuovi veneziani, quelli che sono venuti, che hanno sostituto una razza che sparisce, dei vecchi veneziani che sapevano tutto, che avevano un orgoglio di essere veneziani, questi nuovi non sanno niente. Io credevo, ma cosa vuol dire Bacari? Cosa? Non mi guardavano. Cosa vuol dire Canove? Non chiedevo anche gli altri, c'erano altre bettole tipo Malvasie, poi Samarchi, da San Marco si chiamava, San Marchetti. E tutto questo mi sembra che potrebbe essere meglio, sembra che possa essere meglio presentato, meglio raffigurato, meglio offerto a quelli che vengono a Venezia. Grazie professor Matvejevic, indubbiamente salvare la tradizione, mantenere queste tradizioni senza contaminarle con la modernità, ma appunto salvaguardando la loro identità, ma rendendole appunto accessibili anche all'uomo moderno. Assolutamente. Grazie professor Matvejevic. Ecco, Gianfranco Bettin, non tutto si è perso, la città ha ancora i suoi bacari. Sì, ne ha molti, ne ha anche in luoghi che uno non si aspetterebbe, perché anche solo attorno a Rialto, non tanto nella Venezia minore, più sconosciuta, eccetera, anche in luoghi centralissimi, ripeto, per esempio attorno a Rialto ce ne sono alcuni, anzi diversi, di gloriosi, frequentatissimi, in cui questa memoria, storia e questa vita di relazione a cui faceva riferimento adesso Predrag Matveyevic è ancora ben viva e dentro la quale si sono ricostituiti dei circuiti in cui si mischiano vecchi e nuovi veneziani, sia nel senso di vecchie e nuove generazioni, sia nel senso di veneziani acquisiti per studenti che si sono fermati dopo aver studiato a Venezia o gente che è rientrata o è arrivata a vivere a Venezia. Naturalmente è un processo in atto, lento, perché ha a che fare con i mutamenti sul lungo periodo delle città. Venezia ha vissuto un lungo periodo di trasformazione che tendeva a riconfigurarla e in un certo senso anche a snaturarla, la Venezia storica. Il processo in atto oggi di lungo periodo intreccia le due dinamiche, la trasformazione ma anche la rigenerazione di una Venezia molto legata alla Venezia storica, quella di cui spesso si piange la scomparsa e anche con fondati motivi in tante occasioni, ma che è più resistente di quanto non si creda e che è la base su cui con appropriate politiche si può lavorare per investendo per far sì che quell'intreccio tra memoria e realtà, tra memoria e presente, possa virtuosamente prodursi e continuare appunto tutti, certo, a lasciare questa città. Siamo purtroppo in conclusione, vorrei solo una battuta dal professor Isnenghi: possiamo avere fiducia nel futuro di Venezia come qualcosa che sia un valore, che dia valore anche al fatto di essere italiani? Possiamo avere fiducia di sicuro, basta avere un miglior rapporto con la memoria e non lasciarsi ridurre a museo. Abbiamo fatto un sacco di cose nel Novecento di cui ci siamo dimenticati. Venezia ha continuato a vivere dopo il famoso 1797 e non certo come capoluogo di provincia. Grazie professor Isnenghi, così come ringrazio il professor Predrag Matveyevic, Gianfranco Bettin, Marco Carminati e Marta Cagnola, che fra un po' prenderà il treno. Potrete seguire nei prossimi giorni con le sue cronache dal Festival di Venezia. Ringrazio Carmelo Laricerno in regia e Sara Sprafico in redazione. L'appuntamento è per domani. Yeah.